www.radio3pod.rai.it. It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli il rumore di fondo sfiora l'inquinamento acustico, Cappa e Drago sono alle prese con la musicoterapia. Vedo che comincia a imparare. Allora, ma dai, l'ukulele, dai, parlami un po' dell'ukulele, piuttosto di suonare, mi fai la storia dell'ukulele. Pronto per la lezione giornaliera di musicoterapia. Ma Cappa, te l'ho già detto, musicoterapia non vuol dire semplicemente comprarsi un ukulele e rompere le balle a tutti quelli che incontri. La musicoterapia... La musicoterapia è una disciplina, una scienza, non so cosa sia, però avrà tipo delle regole, no? Tipo delle regole? Tipo. Beh, il primo passo della musicoterapia immagino che sia quello di godere del suonare uno strumento, vedi? Io con l'ukulele devo proprio dire che godo suonando. Sì, stai calmo. Prego, me lo posso portare dappertutto. È quello il pacco, ce l'hai sempre dietro. Dici? È un suono meraviglioso, si possono fare tutte le cose che si fanno con una chitarra ed è mille volte più maneggevole. Pensa che anche sul water... Ma no, ma capo, chi se ne frega di quello che fai sul water? Ma scusa. No, Drago, suono l'ukulele, che male c'è? Una chitarra non la puoi mica portare sul water. Narra invece la leggenda che il mitico chitarrista blues J.J. Cale andasse regolarmente al gabinetto con la sua chitarra. E sembra anche che scrisse cocaine seduto sul water. La fabbrica di polli. Se adesso vai a casa di uno e noti che non ha il televisore LCD, provi pena per lui, capito? Come quando vai da uno e ha un PC da tavolo, col modem a parte. Come quando vai da uno e vedi che ha solo un disco ed è di Céline Dion. Come quando vai da uno e vedi che non ha il box auto e parcheggia sulla strada. O come quando vai da uno e stai in un garage perché non hai i soldi per affittare una casa normale. O come quando vai da uno e vedi che i suoi genitori sono morti da anni, ma lui è impazzito e continua a parlare con i loro corpi putrefatti. Ecco, quello è il vero imbarazzo. E non c'è niente di peggio del vero imbarazzo. Nemmeno abitare in un garage con i genitori putrefatti. Mamma, ti ho comprato il vermifugo, sei contenta? Io non saprei che dire se adesso fosse giorno. E non saprei partire perché non c'è ritorno. E non saprei chi sono se si vedesse il viso. Tu penseresti male vedendo il mio sorriso. La notte ci nasconde e meno male cela le mancanze dentro queste stanze. La notte ci nasconde e ci fa male, prendere le distanze tra noi due. La fabbrica di polli. cappa, ma non è che con i televisori LCD si farà la fine degli orologi al quarzo, quelli col display, con i numerini rossi che dovresti usare? Ma cosa c'entra adesso? Perché dici LCD, display, no, tira tutto insieme. Ma no, io mi ricordo che nel 77 o giù di lì, quando erano usciti i primi orologi al quarzo, se avevi ancora quello con le lancette eri un perdente. Però poi è successo che dopo qualche mese tutti avevano l'orologio al quarzo e dopo 2 anni tutti avevano di nuovo quello lancette. È stata una bolla. Però poi sono tornati anche. Quindi tu pensi che un giorno torneranno in massa i televisori profondi 1 metro, quelli catodici giganteschi? Adesso cominciano a costare pochissimo e tutti i cocoriti li comprano, poi li rivenderanno ai cugini che arrivano da poco. E poi poco per volta ci si accorgerà che tanta gente non ha i soldi per comprarsi il televisore figo e le aziende dovranno tornare a fare quelli spessi. È la regola del mercato, no? Prego, scusa, ma cosa ne sai tu di mercato? Cosa parli adesso? Compreranno, faranno? Niente, non ne so proprio niente. Appunto. Lascia parlare quelli che di mercato se ne intendono. Sì, tipo te. Tipo me? Ma anche tipo l'amministratore delegato, la vera voce della saggezza. Nella vita di ognuno di noi, sia essa la sfera professionale, sfera, o quella privata, quello che conta è la qualità delle relazioni. Non esiste l'amicizia, non esiste il matrimonio, non esiste l'amore, esistono soltanto i rapporti di interesse. Più questi rapporti di interesse sono solidi, più si acquisiscono punti, come nella PlayStation, per migliorare il proprio stile di slalom. Lo slalom è l'unica via di salvezza per evitare di venire fracassati dall'effetto domino. Imparate a sciare. La fabbrica dei polli. Cosa stai usando, K? Qui c'è sempre il solito odore di fabbrica di polli. No, no, sì, qui sembra un odore diverso. Annusa bene. Forse sì. Cibo precotto in via di riscaldamento, sai? Sì, sa che viene dalla mensa, senti bene. Un po' dolciastro, ma vabbè, ma la mensa è in disuso, scusa. Ci vanno a dormire i cocoriti clandestini. Ah, ecco. Allora capisco. I cocoriti clandestini stanno cucinandosi qualcosa. La feijoada. Feijoada completa. Forse sì. Certo che però l'odore... non è dei più no, irritanti. Drago, no, Drago, stai calmo, non storcere il naso, Drago, diventi mostruoso. Drago, no! Drago, no! No! Drago, fermo! Non storcere quel popò di naso! Fermo, la metamorfosi, no! Ma Drago, sei diventato... Sei diventato... Il tuo naso! Io sono il naso di Drago? Sì, ma non hai coscienza di te stesso? Come naso? Beh, come organismo. Non direi proprio. Sono come un mostro senza cervello. Infatti, che cosa devo fare adesso? Che ruolo mi è stato assegnato nella catena alimentare? Di cosa mi nutro? E chi nutro? Cosa sono? Un naso? Ma il naso esiste come tale o è soltanto una parte del corpo umano? E perché proprio il naso? Drago sapeva di avere il naso grande e si preoccupava del fatto che crescesse ogni giorno di più. Ma allora io sono quel naso o sono solo il simulacro di quel naso autogenerato per ipertrofia? Mi sai rispondere? Hey man, I don't know. I only know that there is an incredible giant nose here in front of me. You won't believe it, man. Incredible giant nose. Che cosa succederà adesso? Il naso di Drago e Drago sono la stessa cosa o si è verificata una mutazione permanente degna di attenzione accademica? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo Otorino Laringoiatrico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non muore.